Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Homage to the Buddha, the Blessed Noble, and fully self-enlightened one. Omaggio al Buddha, al beato, al nobile, al pienamente illuminato, auto-illuminato. So these are handouts to just remind you as to what your practice is. Quindi queste fotocopie sono dei, come dire, delle cose per ricordarvi che cos'è la vostra pratica. So when it comes to the posture, what's important is your back. Quindi per quanto riguarda la postura, la cosa importante è la schiena. If you are leaning against something like a wall or a chair, it's still important to put energy into your sitting. Quindi se state appoggiando qualcosa o al muro o a una sedia, la cosa importante è comunque che stiate mettendo un po' di energia per tenere dritta la schiena. Even if you have something to support your back, you see. E questo vale anche se avete qualcosa che sostiene la vostra schiena. And the reason is that this posture is very good at raising energy. Yeah? Il motivo è che questa postura va molto bene per far sorgere, per far alzare l'energia. Remember that when you see people all crunched up like this, they're holding something, eh? Quando vedete che le persone sono tutte un po', come dire, piegate in avanti, così, è come se trattenessero qualcosa. Sì. And so when you open up like this, this energy is allowed to rise. E invece aprendovi in questo modo, allora permettete all'energia di alzarsi. And of course, what it does is it begins to shake those places where something is being held. Quindi quello che fa è che comincia a scuotere quei luoghi nel corpo dove l'energia è trattenuta, dove c'è qualcosa che viene trattenuto. And that's why there's a lot of pain in meditation from the body. Ed è per questo che nella meditazione c'è molto dolore che deriva dal corpo. Pain in the neck, in the back, in the chest, in the... Oh. But this is good pain, you see. Questo è un buon dolore, un dolore salutare. When this sort of pain comes, we should rejoice. E quindi dovremmo essere contenti quando c'è questo dolore. Because this pain is the pain of letting go, of healing, you see. Questo è un dolore che è legato al lasciare andare, alla guarigione. Which unfortunately doesn't make it any less painful. Fortunatamente questo non è che lo renda meno doloroso. So now, unless your knees are below your hips, then your back is being pushed out, you see. Quindi se le vostre ginocchia non sono al di sotto, a un livello inferiore alle anche, allora è come se l'energia venga spinta in avanti. Ah, so now sitting cross-legged, you see, this is what we can say an unnatural posture. Quindi essere seduti a gambe incrociate è quello che potremmo chiamare una postura non naturale. And I'm not so sure it's worth the pain of establishing a cross-legged posture after a certain age. E non credo che valga, non sono sicuro che valga veramente la pena di sforzarsi di sedersi in questa posizione gambe incrociate dopo una certa età. So if it is so painful, it is far better to sit on a chair. Quindi se è molto doloroso, ma è molto meglio sedersi su una sedia. Or in this kneeling posture. oppure in questa posizione a gambe piegate, inginocchiato. Sì, this is much better, you know. Questo va molto meglio. The only danger is to confuse insight meditation with praying. L'unico pericolo è di confondere la meditazione dell'insight con la preghiera. So, are there any questions about the posture? Quindi ci sono delle domande riguardo alla postura? Sì. Una piccola domanda. Io le mani in genere le poso sulle ginocchia. E nelle istruzioni di date è stato detto che preferisco la posizione in cui le mani sono raccolte sul grembo. Ma io questa posizione non riesco a tenerla in maniera confortevole, cioè faccio sempre un certo sforzo, cioè i muscoli sono sempre tesi per tenere. Yeah. We have to translate this. Somebody doesn't speak English. He's asked how to hold his hands. For him, it's more comfortable to put him on his knees. But in the instructions, he heard that we suggest that they be put on his lap. And he said this is unnatural because of the tension it creates. Yes. the hands, you see, if there's nothing underneath your hands, then it pulls all these shoulders, eh? Sì, se non c'è nulla che sostenga le mani, allora è chiaro che fanno allungare questi i muscoli delle spalle. Mm. So you'll see some people, they put a cushion here to put their hands on. Alcune persone mettono un cuscino in grembo su cui appoggiare le mani. Ah, sometimes they do that, eh? But actually, putting your hands here is also fine. Ma in realtà appoggiare le mani sulle ginocchia va anche bene. Yeah. And if this is okay, it doesn't matter, you see. E non ha importanza. Yeah. The classical posture is this, you know, hand on top of the other, you see. Questa è la posizione classica, una mano sopra l'altra. In most statues, no, he's not going. In most statues, he's got the right on the left in Theravada. Quindi nella maggior parte delle statue allora il Buddha ha la mano destra su quella sinistra nella tradizione Theravada. But in Zen they do it the other way. Ma nello Zen fanno il contrario. Just to be different. Non per essere diversi. Actually, this always made more sense to me. If you are right-handed, putting your left hand on your right hand has a calming effect, I think. Io quello che penso io è che se uno è destro e non mancino, allora mettere la mano sinistra su quella destra ha un effetto calmante. Mm-hmm. But basically your hands must feel relaxed, that's all. Fondamentalmente le mani devono sentirsi rilassate, tutto lì. Mm-hmm. Yeah. Okay. Is there any other question about posture? Non so in italiano, in inglese. Come vuoi? Sì. No, italiano. Allora, chiedo, io trovo questa posizione per me più comoda, perché mezza con la gamba giù e con l'altra su. Ah. Perché la trovo comoda. E poi mi aiuta più nella concentrazione. Va bene lo stesso. So he finds that posture easier for him and it helps in his concentration. I can't see it from here. He's got one leg up. One leg up. Yeah. We can say this is unique. Possiamo dire che questo è particolare. So we have to allow for individual differences. Dobbiamo permettere anche le differenze individuali. So if it works for you, that's fine. Se per te funziona, va bene. Yeah. What we have to be clear about is what Vipassana is about, you see. La cosa che dobbiamo avere ben chiaro è di cosa tratta la Vipassana. So we can come to that later. E più tardi ne parleremo. Sì? Milarepa, remember. Ah, yes, Milarepa. Very comfortable. Not because it's Milarepa, of course. you can change the legs, si può cambiare. Può cambiare gamba. Yeah. Also, when you're sitting like this, you see, it's good to change the legs. Anche quando uno è seduto in questa posizione va bene e bene cambiare comunque le gambe. Because of the spine, you see. Per via della spina dorsale. Yes, one more question. Sì. Sì? Mi sentivo male alla schiena, molto male. Ho provato a mettere sulla sedia prima. Ho provato a sedermi sulla sedia. È uguale. Sì. La schiena. Is it the skin or is it the muscles around the skin? Chiede se è la schiena o se sono i muscoli. Ah, you see, this is good pain. Buon dolore. Peccato. You see, when we are tense, we're like this, you see. When we relax, then everything stretches. Quando siamo tesi abbiamo le spalle un po' alte, così quando ci rilassiamo tutto si allunga. In the old days, before they put wheels on suitcases, often you would have this, carrying a suitcase, you'd have this tension in your hand. Una volta prima che inventassero i trolley, le ruote sulle valigie, allora si dovevano sollevare, si aveva tensione nella mano. And when you let the case down, then you had this pain in your hand as it released. Quando si lasciava andare, si rimaneva questo dolore nella mano dovuto proprio al lasciare, al rilassare i muscoli. Yeah. So this is that sort of pain is to be welcomed. Questo tipo di dolore è il benvenuto. One has to embrace it with loving kindness. Abbracciarlo con gentilezza amorevole. Any other question? Yeah. Diciamo, talvolta ci può essere molta fatica, no, nella meditazione, ma può essere difficoltoso, no? È possibile avere qualche indicazione, qualche chiarimento su quello che viene detto, il retto sforzo nella pratica, cioè la fatica giusta, l'impegno corretto tra il troppo e il troppo poco, insomma. So, sometimes it's difficult to meditate, so can you say something more about from the tiredness, though? No? Well, he says if it's tiring, it's difficult, it's stressful. I mean, and then it's a strain, he says, on the body and on the mind. So he's asking if you could say something more on the right effort, when it's too much or not enough, what the right balance is. The effort should only be to remain mindful. Quindi lo sforzo dovrebbe essere semplicemente restare consapevole. The physical effort is just keep the body up. Perché lo sforzo fisico è semplicemente tenere sul corpo. Any effort to try and get rid of something is wrong effort. Qualsiasi sforzo che vada nella direzione di volersi sbarazzare di qualcosa, quello rientra nello sforzo non corretto. Then you are in conflict with conditions, prevailing conditions. E allora entri in conflitto con le condizioni prevalenti. In this type of meditation, one is allowing the body, the heart and the mind to express itself, you see. Quindi in questo tipo di meditazione, in questo approccio, uno permette a il corpo, al cuore, alla mente di esprimersi. La mia riguarda ieri la consapevolezza in piedi, la meditazione in piedi che avevamo fatto ieri. Ogni volta che provo a farla mi basta fortemente la pressione, quindi mi devo sedere non per fatica, se no perché proprio mi sembra di svenire. Quindi non so, per non doverci rinunciare, quale cosa devo fare. Standing meditation, she has a drop in her blood pressure. Felt like fainting, and then she has to sit down if there's anything that she can do about. No, I don't know. The thing is. No, I understand. Yeah. The exercise, the reason I do this exercise standing is because I think the position of standing seems to express stillness. Il motivo per cui io propongo questo esercizio in piedi è perché mi sembra che il fatto di stare in piedi esprima un stare fermo, immobilità. And I was trying to use the posture to develop the passive factors of enlightenment, you see. Sto cercando di utilizzare la postura per sviluppare questi fattori passivi della illuminazione. Calmness, steadiness of attention, and equanimity. La calma, la fermezza dell'attenzione e l'equanimità. But obviously you can do this in any position. Ma ovviamente questo lo puoi fare in qualsiasi posizione. Yeah, yeah. So you don't have to do it standing, it's just a way of getting those qualities across, that's all. Quindi non è necessario farlo in piedi, è solo un modo per far emergere quel tipo di qualità. Yeah, position, okay. The next one is the process of watching the breath. Quindi il secondo punto di queste linee guida è il processo dell'osservazione del respiro. So the reason why the breath is used is because it's always there to be felt. Il motivo per cui si usa il respiro è che è sempre lì perché possa essere percepito. If it's not there, you need to worry. Se invece non c'è, è bene che vi preoccupiate. The other thing is, it's neutral. The feelings are neither pleasant nor unpleasant. They're neutral. E l'altro motivo è che le sensazioni sono neutre, non sono né piacevoli né spiacevoli. And this concentration, when it's developed on something neutral, becomes a quality of the mind itself. Quando la concentrazione è sviluppata su qualcosa di neutro, allora diventa essa stessa una qualità della mente. It's easy to concentrate on a DVD, eh? Perché è facile concentrarsi su un DVD, un film. Un film. You don't say DVD. Yes, DVD. Yeah. Because it's entertaining and so on. Eh? Perché è una cosa divertente. But this sort of concentration is not so strong, eh? Ma questo tipo di concentrazione non è molto forte. But to develop, the important thing is concentration goes with calmness. You see, so you have to relax, wait until the mind, you know, becomes still. You see. E ricordate che la concentrazione va con la calma, cioè dovete aspettare che la mente si rilassi e quindi che diventi ferma. If you make yourself concentrate, then you get a lot of agitation, you see. Se vi sforzate di concentrarvi, allora quello che avrete è molta agitazione. The problem is that in developing this calm concentration, one easily slips into sleep. Il problema è che nello sviluppare questa concentrazione così calma, uno potrebbe poi addormentarsi. Now, the noting. The noting is just a way of keeping the intellect happy, the thinking, imagining mind. Happy. Quindi questo notare, questa etichetta mentale che si usa, è un modo per tenere la mente pensante, l'intelletto, felice. But it has to be done deliberately, eh? It's not a mantra. Però bisogna che sia fatto in maniera deliberata, intenzionale, non è un mantra. Sometimes the word seems very loud for beginners. Sometimes the word seems very loud in the mind. A volte, soprattutto per i principianti, queste parole che si usano, sembrano molto forti, no? Hanno un volume molto alto nella mente. The word is more obvious than the actual feeling of the breath. Quindi la parola sembra più evidente, più ovvia che non l'effettiva sensazione del respiro. If you keep placing your attention on the sensation, you see, then the word will begin to recede. Ma se continuate a mettere la vostra attenzione sulla sensazione, allora la parola, la nota mentale, comincerà a svanire nello sfondo, a recedere. So that the word feels as though it's coming from behind, you see, pushing you. E quindi è come se la parola venisse dal di dietro, come se vi spingesse. To make you actually move towards the object, it's pushing you. Per far sì che voi vi avviciniate all'oggetto, come se vi spingesse verso l'oggetto. Ah, so it is rising, see, falling, Poi allora c'è questa etichetta tipo alzarsi, dell'addome ovviamente, quindi alzarsi, poi abbassarsi. Quindi è come se vi spingesse a guardare quella sensazione. The number of times you make a note is not important. E non è importante il numero delle volte in cui annotate la sensazione, utilizzate la parola. The important point is to feel the sensations caused by the breath. La cosa importante è sentire, percepire le sensazioni causate dal respiro. Are there any questions? Any problems came up with that? Sono delle domande, dei problemi che sono sorti riguardo a questo? I remember that the quality of the breath, the calmness of the breath, helps us to relax, you see. Quindi la qualità del respiro, la calma del respiro ci aiuta a rilassarci. Quindi, se ho capito bene, ogni respirazione si percepisce, cioè, percepire anche una sensazione nella pausa tra l'espiro e l'inspiro. Stai parlando quindi, perché in inglese c'è rising falling, che ho tradotto come alzarsi e abbassarsi dell'addome. Ho capito, lui dice nello spazio prima che ricominci l'inspirazione viene percepita e osservata una sensazione. Se non la posso non ancora spiegare. This is at the beginning when the mind is very where the mind easily wanders, you see. All'inizio la mente facilmente divaga. So at the end of the out breath there's usually a break. Alla fine della espirazione di solito c'è una pausa. So if you give the mind something to observe, like the feeling of your hands. Quindi se date alla mente qualcosa da osservare, come per esempio la sensazione nelle mani. So toccare. And then as soon as it begins, outside. E quindi qui ho tradotto come toccare, come essere a contatto, per esempio un punto di contatto e poi di nuovo alzarsi, abbassarsi. Now you might do that at the beginning of every sitting, you see. Quindi potreste fare questo esercizio all'inizio di tutte le sedute. And then as you feel a growing concentration, stay where the breath is. See? Without using toccare. Ecco, poi quando vedete che la concentrazione si è stabilizzata, allora state solo con il respiro, senza i punti di contatto. Yeah. So if you can do that for maybe 6, 7, 10 breaths, then in a sense you have enough concentration now. Se riuscite a farlo per 7, 8, 10 respiri, vuol dire che avete già una buona concentrazione. So then we open up, you see. A quel punto possiamo aprirci. So it depends. Sometimes it doesn't take very long, maybe a minute or something. A volte potrebbe non essere necessario molto tempo, forse un minuto. Sometimes it maybe take 10-20 minutes. A volte anche 10-20 minuti. And if during the sitting you allow the mind to wander, so it builds up this energy for thinking and imagining. Se però durante la seduta permettete alla mente di divagare, è come se crescesse questa energia dell'immaginare, dell'immaginazione, cioè questa proliferazione della mente. Then it's it may be good just to stop, you see, stop the practice. Allora, a quel punto è bene anche interrompere la pratica. You see, open the eyes, look around, you see. Aprite gli occhi, guardatevi in giro. And then start again. E poi ricominciate. Don't find yourself struggling against the mind, you see. Don't fight the mind. Non cercate di trovare nella posizione in cui state lottando contro la vostra mente. Non scontratevi con la mente. Now, one thing that is very useful or very helpful is to begin to feel the breath as calming, you know, as very peaceful, creating a very gentle feeling in the heart. Una cosa molto utile può essere quella di percepire la qualità la qualità calmante, pacificante del respiro. Quindi sentire questa calma nel cuore. Mm. So when we find the breath is pleasant, then of course the mind wants to go there. Quando sentiamo che il respiro è piacevole, allora la mente vorrà stare con il respiro, vorrà andare lì. If you turn it into just an exercise, a boring exercise, then it's painful. Se diventa solo un esercizio noioso, allora è chiaro che diventa doloroso. For our meditation, for our daily life, it's good to develop a taste for peacefulness, for calmness. You see? Per la nostra vita quotidiana è bene sviluppare questo gusto della per la calma, per la pace, la tranquillità. Mm. Remember that in our consumer society, they want us always to be excited. Nella nostra società consumistica vogliono che noi siamo sempre eccitati. Mm. Anything else on the breath? Qualcos'altro sul respiro? Vabbè. Io volevo chiedere questo. Io mi accorgo che è proprio molto sottile il confine tra l'essere concentrati sul respiro e ritrovarsi a pensare a qualcosa. Io mi accorgo in alcuni momenti che è come se una parte della mente fosse sul respiro e l'altra parte è già partita su qualcosa. So it's a very, very fine line between staying with your breath and a wandering mind, basically. So sometimes she finds herself on her breath, but at the same time, she feels that she's thinking about something else. So. Yeah. So this tells us the speed of the mind. Indica proprio la velocità della mente. So when you notice that, you see, make a determination to go with the breath. Quindi quando tu te ne accorgi, prenditi proprio l'impegno, no? Il proposito di rimanere col respiro. Sarà anche quando mi concentro sulla respirazione addominale e basso addome, a volte sento al livello dello stomaco, lateralmente sulla sinistra, come le bolle mi scoppiano. Però questa cosa per me basta, è un po' col silenzio, mi porta a controllare a renderla più fluida, perché magari posso Sometimes when she's concentrating on her rising and falling, she feels in her stomach on the right like some bubbles bursting. Yeah. And she's wondering what that is, and she's always afraid that that might disturb others or it's And she might you mean the... Quindi tu hai paura di disturbare gli altri o ti o disturba te? She's afraid of disturbing others, but she also feels that it's strange. No, to me it's a wonderful sign. Per me è un segno meraviglioso. It's just something releasing. È qualcosa che si sta lasciando andare. Yeah. Un rilassamento. When something comes up in meditation, a pain or a funny feeling, yeah. Ogni volta che sorge qualcosa in meditazione, che sia un dolore o una sensazione strana. But when you get up from the meditation posture, it's no longer there. Ma quando vi alzate dalla meditazione non c'è più. Then you can presume that this is something which is happening through the process of purification. Quindi potete supporre che questa è una cosa che accade grazie a questo processo di purificazione. If it carries on. If it carries on for the day, you know, 2 days. Se invece continua per un giorno, 2 giorni. See a doctor. Allora andate a vedere un dottore, farvi visitare da un medico. You know, definitely, yeah. Sicuramente. Noises, don't worry about disturbing others, you see. Non ti devi preoccupare di disturbare gli altri. Because the Vipassana meditation, from the meditator's point of view, they're not supposed to be disturbed. They cannot be disturbed. Perché per quanto riguarda la Vipassana, dal punto di vista del meditante, loro non possono essere disturbati da un rumore. Because any object that comes, a hearing for instance, is to be observed, felt and understood. Perché qualsiasi cosa che sorga, che può essere anche un rumore, va osservato, sentito e compreso. La domanda è questa: quando la mente comincia a pensare, va, a me succede così, no? Sento, mi concentro sulla respirazione, poi ogni tanto riprende, va, però vedo i pensieri, osservo i pensieri, poi la riprendo e magari cerco. Va bene l'osservazione dei pensieri, cioè mi accorgo che lei va e vaga e poi te lo osservo, va bene? It's okay to watch your thoughts, basically, observe the thoughts when you're thinking. When you come to a Vipassana retreat, it is really, I forgot to say this last night, it is really good practice to write down on a piece of paper all your concerns, all your worries, all your hopes for when you leave. Yeah? Then you fold it up, you see, and hide it somewhere. See, and pick it up at the end of the week. Questo è un consiglio che lui dà quando uno partecipa a un ritiro di Vipassana: prendere un foglio di carta e scrivere sopra tutte le proprie preoccupazioni, problemi, le cose che disturbano. Speranze. Anche le vostre speranze, sì. Poi chiudete, piegate il foglio, lo nascondete da qualche parte e poi lo prendete quando partite. Sì. Which means that whenever a thought comes in the Vipassana, one knows thinking, imagining. One does not get caught up in the content. Di modo che quando sorge un pensiero durante la meditazione, uno lo etichetta, no, mentalmente come pensiero, pensare, e non rimane catturato però dal contenuto di quel pensiero. And then one comes into the body to see if one can feel the mental state which is empowering it. E poi uno torna nel corpo per sentire qual è lo stato mentale che lo sta alimentando, che lo sta potenziando. This I will go to in more detail this evening. Questa sera ve lo spiegherò più nel dettaglio. Ah, sì. A me succede di sentirmi proprio andare verso la sinistra, vuol dire che mi sto addormentando ed è sono in... spesso in questa situazione, senti esageratamente rilassata, mi ripiglio. She relaxes too much, she feels that she leans towards the left and she realizes that she's going to sleep. Yes. So you have to wake up. Ti devi svegliare. Fatti posa. Ah, yes, yes. Timing. Yes, yes. Well, don't fight it, you see. Just keep lifting, you see. Just keep wakening up. Quindi, sì, non combattere contro questa cosa. Continua semplicemente a sollevare l'energia. One thing you can try is to go from your feet and just keep coming up the body to the top of the head and then go back to the feet. And just keep coming up the body, feeling whatever you can, you see? Quello che puoi fare è fare scorrere l'attenzione dai piedi e poi su lungo il corpo fino alla testa, poi di nuovo giù, percependo tutte le sensazioni del corpo. So when we do this, it keeps the attention awake because it has to move. Quindi questo tiene sveglia l'attenzione perché deve spostarsi. And it sometimes helps to lift energy in the body, you see? A volte serve proprio per aumentare l'energia nel corpo. Yeah, we must move on. Okay. Dobbiamo andare velocemente. So very quickly, when it comes to sensations in the body or mental sensations, emotional feelings in the body, we just feel them. That's all. Quindi quando si tratta di sensazioni nel corpo, oppure degli stati emotivi, così come si manifestano nel corpo, tutto quello che dobbiamo fare è semplicemente percepirli, sentirli. Hmm. Let them express themselves, you see? Lasciate che si esprimano. Ah. So we've done that. Okay. As a general, yeah? Everybody's all, yeah, happy? Very good, yeah. Yes. So, in the walking meditation, remember, this is also an important balance to the sitting. Quindi la meditazione camminata è un importante equilibrio con la seduta. Mm-hmm. Rappresenta un equilibrio con la seduta. And make sure you do some good walking meditation before you come into the back into the sitting, you see. Quindi assicuratevi di fare una buona sessione di meditazione camminata prima di sedervi. Yeah. Maybe 20-25 minutes, something. Almeno 20 o 25 minuti. Is at the beginning, eh? Beginning of a retreat. Questo all'inizio di un ritiro. And when you leave, you know, get a practice that abiding in the present moment. When you leave the retreat. No, after a after a sitting. Quindi è quando invece andate via da una quando uscite da una meditazione seduta, da una sessione di meditazione seduta, praticate questo. Questo dimorare tranquillo. Wide awake, eh? Sì, degli svegli. Mm. So even here, you see, you can stand here and just place your eyes on the vista, you see, on the landscape. Anche qui potete semplicemente stare in piedi e fissare lo sguardo sulla vista che c'è, sul paesaggio. And if you like a camera. If you pan across like this, you see. Potrete fare, per esempio, come se aveste una videocamera, no? Quindi fare una specie di uno sguardo un po' panoramico di quello che vedete. Mm. So, yeah. So not looking for anything. Quindi si tratta di non cercare qualcosa in particolare. But just watch how the eye picks things up. Ma cercate di vedere come l'occhio coglie le varie cose. Ah. And as you do that, the effect on the heart, you see, the effect of that scenery on the heart. E poi vedete che effetto ha questo paesaggio sul cuore. Mm. So, when we're eating, tasting, and feeling good. Quindi quando mangiamo c'è il gustare e sentirsi bene. The body and the mind reacting. Il corpo e la mente che reagiscono. Ah. When we're sitting, we have an angry thought come. And the body gets hot. Quando siamo seduti sorge un pensiero di rabbia e il corpo diventa caldo. Body and mind. Di nuovo corpo e mente. Eh? Two different systems reacting one upon the other. Sono due sistemi diversi che reagiscono uno con l'altro. Mm. As you scan the view, you see, just be aware of the peacefulness, calmness, you see, dependent on the view. E anche allo stesso modo quando guardate questo paesaggio allora sperimentate questa calma, questa piacevolezza e quindi di nuovo c'è calmness, the connection between body and mind. Sì, di nuovo vedete questa connessione tra il corpo e la mente. Now if you do this throughout the day, you see, if you do this throughout the day, the pain and suffering of the sitting meditation is balanced with the joy and the peacefulness of just being in the present moment. Quindi se lo fate per tutto il giorno, allora questo dolore, questa sofferenza che può sorgere nella meditazione seduta, in qualche modo viene equilibrata, viene bilanciata con questa gioia che deriva dal piacere di stare nel momento presente, dalla calma che deriva nello stare nel momento presente. So it shows us that with the process of purification leads us towards happiness. E quindi questo ci dimostra che il processo di purificazione ci conduce verso la felicità. If after the day, after the week, you have this balance, you see. Then you want to come back. E quindi se alla fine della giornata, alla fine della settimana avete questo equilibrio, allora poi vorrete tornare. If it's all pain and suffering, I won't see you again. Se invece è tutto dolore e sofferenza, non vi vedrò più. It's true. So, we can stop there and do some walking meditation and then some sitting. Quindi adesso facciamo una camminata, poi una seduta. And I will come back just before lunch to explain a little more detail about how to eat in this insightful way. Un po' prima della fine dell'ultima seduta verrò in sala per dire qualcosa su come possiamo mangiare in questo modo che possa portare degli insights, cioè delle intuizioni profonde. Sì, bon. Grazie. Thank you.